Ciao Roberto. Scusa che sto mangiando dei datteri. Buoni datteri, a me piacciono un bel. Ciao, ben sentito. Ciao Roberto. Sono buoni sì. Poi io sono un pochino goloso, dunque. A chi lo dici? Io le tucce, le mangio burro truppi, però non le posso fare a meno. Lo so. Anch'io le mangio praticamente tutti i giorni, se vogliamo, là. Tutti i giorni, alle volte un po' di più, alle volte un po' di meno. Beh, non c'è nessuno, ho appena acceso io. Io sono arrivato adesso in questa stanza e dunque non lo so, infatti mi stavo anche sistemando ancora. Non lo so, non sento nessuno, ho appena acceso adesso. E io, cosa stai utilizzando tu? Io in questo momento? In questo momento sto usando il grande, dai. Col microfono il più 4? Sì, sempre più 4, sì. Ok, già va bene, grazie, la funziona tutta bene. Ok. Sì, diciamo che sto usando quasi sempre questo microfono, l'altro l'ho conservato. Così dico che sia migliore come modulazione, perlomeno che si addice di più alla mia voce, che sia questa. No, io ti ascolto perfettamente, la tua voce è naturale, è come dal vivo. L'altra adesso non me la ricordo, ma anche l'altro va bene sicuramente, si addice quello di coso, l'originale, per cui anche quello va più che bene. Sì, ma sicuramente va bene, ma dicono che questo va più bassi, cioè praticamente sono i toni che mi mancano a me dalla voce, da io ho solo toni alti nella voce, per cui pochi bassi. E questo microfono un po' di bassi mi dice che me li dà, non molto ma un po' me li dà. Ha molti radioamatori e professionisti, diciamo, quelli che fanno attività e coso, su apparecchi che modi utilizzano l'MB più 4 o più 5, quando sono in banda laterale dicono che va più che bene, se ne vantano pure. Sì, ma l'ho sentito tantissime volte, sì, è vero. Ma anche il tarne più 3, tanta gente usa anche il tarne più 3, ma dipende sempre dalla timbrica che uno ha per poter adattare la sua voce nel modo migliore al microfono. Comunque, sarà strano, se un microfono da 50 euro possa essere superiore a un microfono di 150 o 170 o 180 euro. Ciao, avanti. Buonasera. Sì, buonasera, chi sei? Luca Robert. Ah, non ti avevo riconosciuto, c'è anche Giulio, avanti giù. Ok, ciao Luca. È così, Robert, capito? Stavo dicendo che è strano che un microfono da 50 euro possa essere superiore a un microfono di 150 o 180 euro. Già lo so, molte volte capita. Io ho fatto delle prove di registrazione della voce, non sulla radio, diciamo, su registratori professionali, diciamo così. Ti vedevi un microfono, per dire, della Shure, che costava una barca di soldi, però si adattava, per dire, su strumenti musicali o cose del genere, poi ne prendevi uno A13, di marca A13, e la voce la sentivi più naturale. Sì, sì, sì, è vero. Io ce l'ho un microfono da Shure, anzi due dovrei avere, non uno o due. Uno sicuro, due non me lo ricordo, perché microfoni, io parlo di microfoni che servono per cantare, e ne ho anche di quelli comprati addirittura dai cinesi, ma devo dire che quelli comprati dai cinesi non è che siano poi così inferiori allo Shure, parlo di microfoni per cantare, roba che mi ha dato mio fratello e anche qualcosa di mia figlia, e da. No, mi sembra 5 o 6 di questi microfoni. Già lo so, non è così, capita. Poi non so se ti è capitato di fare una registrazione ad alta fedeltà della tua voce e poi te la risenti e dici: mamma mia quanto è brutta, non sono io. Perché noi ci sentiamo in un modo diverso, perché noi le orecchie, cioè quando parli è come che c'è un imbuto, che ti metti la gola e l'imbuto e tu ti senti diverso da quello che ti sentono gli altri. La senti completamente diversa la voce. Sì, in effetti è vero, noi non riusciamo a percepire esattamente qual è la timbrica nostra. La sentiamo, magari uno ha una bella voce, canta, è anche molto ben intonato, si sente cantare e non si riconosce. Purtroppo è così. Anche mia figlia dice la stessa cosa. Dice: mamma mia che voce brutta che ho. Infatti invece è una voce splendida, veramente. È un primo soprano, tra l'altro, oltretutto, che canta già da tantissimi anni. Però a lei personalmente la sua voce non piace, o perlomeno non la apprezza come pensa lei. Là. Facciamo girare, avanti Luca. Io sto merendando, mi sto ascoltando. Là. Sto mangiando un po' di pezzi di pane calanzao. Ah, intendi. anche tu mangi pane carasau. Qui e diciamo che qua dall'ordine del giorno il pane carasau, vabbè, comunque tutti i casi me ne so. Una volta si diceva così a Sassa, io, vabbè, mamma mia, tanto dei casi ne mangi poco dei casi umene. Beh, vabbè. Ma il pane carasau ai tempi tuoi, quando il ragazzino andava giù, pane guttiao, scusate, quello a paprika, non è il carasau. Il carasau è quello non sottile, questo qua è poco più grosso. E guttiao, quello più salato, dai, diciamo, per specificare meglio. Sì, anche quello tante volte. E vabbè, dai, avanti, vabbè, se avete parlato in due insieme a Luca Pocante. Ecco. Sì, avanti, breve. Ah, pensavo che lo stavo uscendo, ho chiamato quattro volte, ho chiamato. Buonasera Roberto, buonasera Giulio, e buonasera anche a Corso, a Luca. Niente, Franco da sotto. Volevo sapere solo una cosa, comunque auguri a tutti. Volevo sapere una cosa, stavo uscendo dalla radio. Sì, scusa Franco, non ti abbiamo sentito, va bene, che hai parlato nel momento che stavo parlando lui. E la radio è buona, 5, il segnale è 7 qua dalle mie parti. Aspetta, va bene, se voglio far vedere sentire la radio con le sue contatto. C'è anche Giulio e c'è anche Luca. Ma c'è portante? Sento un rumorino sotto, tipo un martelletto che sta battendo, non so se te lo stai portando appresso o che cosa sia. No, quello non è una portante, Roberto. Aspetta, lasciamo un attimino di bianco, c'è qualcuno sotto che sta cercando di entrare, avanti che vuole entrare. No, sta mettendo portante probabilmente, o è qualche modulazione di propagazione. Chi era l'amico avanti? Vediamo un po'. Lasciamo un attimino di bianco, può darsi che non riesco ad entrare. Avanti, chi era? Vediamo un po'. Vedi, è una portante, dai, è una portante bassa, che crea solo un rumore basso, niente di più. Avanti Franco, ciao, buonasera e auguri anche a te. Ciao. Sto ricambiando. Niente, no, pensavo che siccome poco fa ho agganciato la ricappa e ho messo la musica senza e non partiva, non mi dava nessun segno. Rimaneva fermo l'ago anche se parlavo. Io penso, forse il tempo fermo l'ha fatto male, oppure gli ha preso il cuore. Avanti di... Vabbè, dai, a chi tocca? Adesso mi sono dimenticato. Ok, dai, mi prendo di nuovo io. C'è Luca che intanto è in quel ring che sta mangiando, poi già magari quando smette di mangiare già rientrerà. No, c'era una portante sia quando parlavi tu che quando parlava Roberto. Forse volontaria, questo non lo so, però il fatto sta che c'era ed è quel rumore, era dovuto a questa portante molto bassa, però fastidiosa, non fastidiosa, diciamo che ci faceva, tirava una timbrica diversa, nel senso che c'era un qualcosa sotto di difetto, che sembrava che fosse nel tuo microfono oppure quello di Roberto quando parlava lui, invece in realtà era una portante Santiago 6-7 e niente di più. Avanti Roberto. No, io non lo sento, io ho sentito adesso, infatti volevo lasciare un attimino di bianco, uno parlando sotto Santiago 2 basso, aspetta, proviamo a vedere, senta, se non è Bruno quello di ieri mi sembra, avanti che vuole entrare. No, adesso non c'è nessuno, poco fa sentivo un segnalino basso, sembrava quel Bruno di ieri che stavamo parlando ieri. Ok, Franco, ti rilancio il mic a te, ma adesso sta usando il 60 o che cosa? Sì, sto usando il 60 e probabilmente gli ha fatto bene continuare a usarlo, dai, a schiacciare, a fare, sto facendo delle prove anche su 5 ed è per quello che magari si è ripreso. Non pensavo che non stava uscendo invece, se no mi toccava ordinare qualche cavetto nuovo, ma sta uscendo, va bene così. Avanti Giulio. Ok, fra, no, alle volte sai così, controlla l'interruttore che c'è sotto, alle volte lo muovi solamente, anche se nella sua posizione, lo muovi, fai un andata e ritorno e se dipendesse, perché probabilmente era quello, magari un po' di ucido che si crea, sarà accusato quello, però si è ripreso subito, dai, andiamo bene. va bene, ecco, fa, purtroppo il 60 fa quel difetto alle volte, sotto nella base c'è un interruttore, alle volte quello ha bisogno di essere mosso per poter fare contatto bene. Avanti Roberto. Oh, voi ce l'avete tutti questo 60 con l'interruttore, il mio non è interruttore sotto, è completamente coperta la lamiera. Evidentemente è un altro tipo di coso, di versione, robe, quello che ti dica. Boh, il mio ce l'ha, il tuo Franco ce l'ha il territorio sotto nella base? Sì, vai in auto e in quello lì, infatti li ho spostati tutti, li ho giocati tutti quanti, sia quello di sotto del microfono e quei due che ho sopra del microfono, li ho giocati. E le ho playtate nel microfono, due sopra e uno sotto. Due sopra? Sì, nel collegato. Sì, ce ne sono due. Ho capito sopra dove, ma dove c'è il manico del microfono? Sì, nel microfono proprio. Sì, no, sto facendo fesseria. Io un off ce l'ho sul microfono e poi c'ho l'impedenza. Sì, uno è un off con uno. E l'altro va sia alle 50 fino alle 500. Sì, l'impedenza, i non sono. No, ma il mio non ha l'interruttore, il vostro dice che molti 60 hanno la possibilità di mettere la batteria sotto. No, nel mio non ce n'è. Sì, il mio posso mettere anche la batteria. Sì, noi abbiamo avuto tutti così gli amici 60. No, il mio no. Giulio, tu c'hai posto per mettere la batteria? Sì, e c'è l'interruttore, da me c'è l'interruttore sotto. Anzi, adesso te lo attacco e te lo faccio anche ascoltare. Tieni presente questa modulazione, Robby, magari con quello strumento che hai tu. Poi attacco subito l'altro e vediamo un po' se c'è differenza a riguardo di tonalità, eccetera, di quello che stavamo parlando poc'anzi. Adesso cambio in un attimo, intanto riprendi fra, e poi mi dirai il risultato, Robby. Ok. E io. Sì, c'è a posto della batteria. Vabbè, quello, il tassino che c'è sotto non è che per la batteria. Per la batteria, le batterie le devi mettere se usi una radio tipo, allora io uso la presidente Lincoln, allora se voglio mettere l'MC60 allora ci metto la batteria, ci metto, capisci? Che non ha il coso al microfono, cioè non c'ha le cose per come si dice, per dargli l'audio là. Sì, no, non so come funziona, però questo qua probabilmente è una serie diversa che non ha il, come si chiama, il valvo per la batteria, è completamente chiuso e non c'è l'interruttore, so. Non l'ho mai visto quello lì, a dire la verità. Io tutti quelli che mi ho comprato, addirittura ne ho comprato anche uno nuovo, e ti dico che tutti uguali li ho trovati, tutti con la mano batteria e più quel tassino sotto. Ehi, ho cambiato radio, hai notato differenza tu? Sì, rimane più chiara, più, diciamo, più acuta, no? Ma di forza, come forza di modulazione, è uguale o più bassa? Leggermente più alta. Ok, va bene, adesso vediamo Giulio che cosa sta facendo. Ecco, io ho cambiato, non so se devo fare qualche aggiustamento, dimmi tu, vai 1, 2, 3, prova, vai, Robè. E che microfono è questo? Questo è 60. Mi sa che mi sembra che c'è più acuti con questo che con l'altro. Sì, acuti sì, più acuti sì, l'altro ha più bassi. L'altro ha più bassi, siccome io nella mia voce non ho molti bassi, allora con l'altro microfono, l'MV4, dice che mi fa avere anche un po' di bassi. Boh, che ne so. Che mi dice una cosa, che mi dice l'altra, poi naturalmente questa è una questione di valutare a secondo l'orecchio che ascolta, ecco, tutto lì, Robè, non so, adesso questo qui ero qualche mese senza usarlo e lo sto usando in questo momento, vedi un po' tu. Allora, adesso ho memorizzato le tue posizioni di livello e di modulazione, prova ad attaccare l'altro e se riesci a farlo veloce così guardo chi è più forte. Sì, intanto do il microfono, aspetta, che raccolgo. Perché nell'altro c'è la prolunga che avevo fatto, perché se no, ecco, intanto riprendi tu fra, io nel frattempo cambio, vai. Sì, mi pare che la modulazione è più bella questa, è molto, molto bella, chiara, io non lo conosco il verticale, però io penso che gli faccia la sua modulazione normale. Ecco qua, vabbè, 1, 2, 3 prova. Attento Roberto, il livello è sempre quello. Anzi, in questo c'è anche il microfono, c'è la batteria anche, no? L'MB4 ha anche la batteria. Il livello di questo momento del potenziometro è a 1, 2, 3, 4, a 5. Sì, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, a 5. L'MB4 praticamente è la prima versione, tutto sommato. E cioè, intendo io che è l'MB4 senza quell'anellino cromato che oggi monta l'MB4. Questo invece non è assolutamente, è tutto nero e ci sono i punti di riferimento colore blu, dai, vai. Allora Giulio, questa è più ricca di modulazione, cioè nel senso c'ha tutte le tonalità rispetto all'altra, è la più predominante di tonalità acuta, questa qua ti dà un po' più di bassi, è più naturale come modulazione, il livello microfonico è uguale, stavo guardando, sembrava più forte quella del 60, ma siamo identiche come livello, non è né una più alta né l'altra più bassa come livello, come modulazione questa è più naturale, cioè tonalità è ancora migliore dell'altra, a me non mi piace più quella, cioè questa qui l'ultima. Appunto, questa è, infatti a me Claudio me l'aveva detto, Claudio non è uno stupido, già le conosce le modulazioni, e dunque lui mi aveva detto per la sua voce va meglio questo, e in effetti tu mi stai confermando quello che appunto mi aveva detto lui, ma io sto parlando già di quasi un anno fa, buoni, prima della pandemia addirittura ho incominciato a usare questo microfono, per cui lui mi aveva detto guarda il MB4 strano, però ti fa una modulazione più piacevole a seconda della tua timbrica, e dunque tu me lo stai confermando, Roberto. Sì, 100%, non è neanche più bassa dell'altro, sono identiche come livello di microfono, non è più amplificata, è identica, perfetta, gli stessi dB di coso, di intensità, è un po' meglio come linearità, diciamo, di modulazione, c'è un po' più carico di medio-bassi e di bassi rispetto all'altra, l'altra è un po' più ricca di medio-alti e di alti. Ok, ho capito, e se dovessi utilizzare ancora il potenziometro, siccome, come tu hai detto, questo qui ha la batteria, no? Questo è alimentato, tra l'altro è alimentato direttamente dalla radio, questo invece oltre è alimentato da se stesso praticamente con la batteria normale, adesso è a 5, se io ad esempio la metto ad esempio ecco a 6 in questo momento, tieni i passaggi, scusa Efra, tieni presente tutti i passaggi, questo è a 6, questo è a 7, 1, 2, 3 prova, attento Roberto, prova di modulazione, e questo è a 8, vabbè non vado oltre, basta così perché dovrebbe essere anche eccessivo, suppongo, anche come volume, poi lo riporto di nuovo a 5, che lo rimetto subito, anzi, sto guardando bene, ecco 1, 2, 3, 4, 5 così, ecco, e 5 così, l'ho riportato a 5, dimmi Roberto. Allora, il discorso è questo, poi è tollerabile sollevarlo, si può tollerare perché non disturci, sale un pochettino la radio, il livello della radio, però tipo ti ha preso un po' di rumore di fondo delle ventole, però può andare bene anche così, questa è più la salottiera, l'altra è un pochettino più forte come intensità di modulazione, un pochettino più forte, però si sente di subo sotto, io direi lasciare tutto così, teoricamente puoi anche alzare, se vuoi una radio più da combattimento, però da parte mia va bene così. Ok, sì, infatti, sì che mi stai confermando tutto quello che mi aveva detto Claudio, siccome mi fido di quello che dice lui, non perché siamo amici, ma perché ha una certa esperienza della frequenza, per cui ritengo che quello che mi ha detto è la posizione migliore, la regolazione migliore, insomma, ecco, sì, beh certo, ma lo capisco, sì, quando aumento chiaramente diventa più sensibile, e allora qui incomincia l'alimentatore switching con la ventola, insomma, i vari rumori, magari mi parlano anche dal piano di sotto, è capace che li senti ugualmente. Bene, avanti Franco. Ma è così come ha detto Roberto, è più acuto, io la vedo più acuta su questa la radio, è molto più presente dell'altra. L'altra era leggermente più bassa, poi parliamo di tuni di cose che non è implementato, non è un premio, è quello. Avanti Roberto. ma una domanda, come stai ascoltando tu, Franco? C'è l'altoparlante esterno o l'altoparlante del coso, quello in dotazione all'apparecchio? No, c'ho l'SP430 della Sisol attaccato a te. Ah, quindi c'hai modo di ascoltarlo in modo ottimale, no? Perché molte volte uno ascolta con l'altoparlante dell'apparato, ce l'ha incastrato dentro una mensola e non si sente niente, magari perdi tutti gli acuti. Quello è importante, dai, che almeno c'è l'altoparlante frontale e riesci a valutarlo meglio, perché molte volte quando danno dei controlli io rimango a bocca aperta, un baracchino, e il baracchino te lo vedi incastrato in una mensolina e non riesci a uscire, dice è un cupo, cacchio cupo, perché c'è l'altoparlante sopra, ci hai messo per dire un alimentatore o qualunque altra cosa, e tu lì tutte le tonalità acute, così ce l'hai di fronte come faccio io lo sto ascoltando con l'SP940, l'altoparlante quello grosso del 940, ed è abbastanza fedele per quello che si può dire di fedeltà su questo tipo di emissioni in cosa, in AM. Sì, vabbè, no, sono molto... è tutta diversa la modulazione dalla sua colonnina a questa esterna, è tutta un'altra storia. Quindi tutti io l'ho sempre avuto, l'ho tanto tempo, però non l'ho mai data, non lo so, perché è un mostro sia qua nel K e anche se lo attacco a un'altra radio. Sì, no, io ne ho diverse colonnine, in questo momento ne ho 1, 2, 3 e 4, le altre l'ho tolta perché quella del 9.40 l'attacco insieme alla 4.40, le metto insieme, c'è la commutazione input A e input B, per cui ne ho tolto una, è solo da schiacciare un tasto quando devi commutare. Ciao Franco da Giusso. Sì, ciao Luca, per ascoltare. Sì, niente che così. Per me sono le migliori, poi molta gente dice che gli basta quella lì, però è come hai detto tu, se uno l'incastro si mette qualcosa sopra, per esempio come ce l'ho io adesso, che ho un panno sopra, una cosa, mi cambia la modulazione. Ok, va bene. Avanti Luca. Ah, già mi ascolti, sì. Pari in onda. Esagerato, ti sei prima 9 forte, 6 9 più 20, sono di più anche. Arrivi benissimo, bene, sembri qua veramente in zona, Invece a casa un po' di meno, vabbè, forse perché qua siamo più vicini, oppure magari c'è qualche, sai, qualche via d'uscita, ecco, e riesco a beccarti in pieno. Andiamo, dai, Giulio, riprendi. Ok Luca, sì, beh, sicuramente nella zona dove sei adesso c'è una canalizzazione migliore rispetto a Sorso, per cui non ti meravigliare se esci meglio da lì che da casa tua, certo, non ci sono dubbi. Sì, vabbè, tornando al mio microfono, appunto, come ti avevo detto, queste regolazioni sono state fatte un annetto fa, io le lascio sempre così, non li tocco minimamente, salvo qualche volta magari che il mic gain della radio, come lo spolvero alle volte, lo sposto, magari non me ne accorgo, però diciamo che in genere io ho l'abitudine prima di accendere, cioè prima di parlare, cambio canale, di solito vado sul canale 7, ho l'altra radio qui, accendo, metto le cuffie e mi ascolto, proprio per evitare diciamo ingressi un pochino azzardati, per così dire, se non sporchi. Perciò, perché non mi piace rompere le scatole a nessuno con gli ingressi brutali, tutto sommato, se così si può dire. Vabbè, avanti, riprendi. No, sono pienamente d'accordo, io vedo la radio, devi cercare di uscire il meglio possibile, quando sento tutte le troppe amplificazioni che devi chiedere cosa hai detto, non ho capito, aspetta, allontanati, alza la voce, abbassa, se non si comprende nulla, ecco, riverberi e malassorte vari, io la vedo la radio per comunicare con una persona, è come che uno si mette a 50 metri e si può avvicinare, uno è col citofono, come megafono, e l'altro dice avvicinati che ti sento meglio, io la vedo così la radio, se abbiamo la possibilità di uscire nel migliore dei modi, cerchiamo di uscire, non di sporcare, forse ho una mentalità sbagliata, che non credo tra l'altro, perché la radio deve avere la massima qualità secondo me, poi la potenza è un altro discorso, però se c'è una radio 5 perfetta, comprensibilissima, non è stancante, non ti dà fastidio perché è troppo alto, è l'ideale secondo me. Sì, infatti è quello che intendo dire io posso anche uscire un pochino più forte del radio, perché in certi casi alle volte si fa un collegamento eccetera, magari c'è bisogno di un po' più di radio, però è interessante che la radio sia perfetta, che non sia distorta, che non sia sporca da vari rumori e balle varie, e soprattutto cioè senza soppressione del radio, ecco, tu lì, intendo quello, senza stare lì a spaccare le orecchie a nessuno, naturalmente, però deve essere pulita, chiara. Avanti, Franco. Ecco, sì, in effetti. No, ma uno quando c'ha una radio che, io penso, una radio che è bene perché toccarla, non ho capito, e quindi chiude, fa quel residuo, ritorna, e magari sta uscendo bene prima e poi sta uscendo di nuovo tantissimo. Direte che una radio che o la tocca o gli piace toccarla, farla uscire come vuole lui, però gli altri, se non si ascoltano, non si ascoltano. E così non per. Io ti dico una cosa, io questa radio qua non sto parata in un modo che non la tocco mai. A volte tocco la potenza perché a volte la abbasso, perché a volte quando calda e comincia a salire e poi esce anche male la radio. Avanti Roberto. Sono pienamente d'accordo, no, ma io non tocco neanche la potenza, mi ricordo che tocco la potenza quando commuti in FM, che ti dà tutta la potenza ed è troppo forte. Allora abbasso, io già mi conosce Giulio da qualche anno, da quando ho preso questa radio, sempre col microfono, alterno ogni tanto con l'altro microfono, ma così per livello di curiosità, solo per vedere, fare delle provette, ma è abbastanza regolare come modulazione, ma non mi vedrai mai sempre ben di esperienza. Una volta che hai trovato, è come quando ti hai comprato una macchina, ti hai messo le gomme giuste, ti hai messo il motore regolato e tutto quanto, non tocchi più nulla. Io questa gente che sta ogni giorno con la stessa radio, hai trovato il giusto compromesso, non tocca nulla. Poi magari se porti una radio nuova, dici qua come esce questa con questo, sì va bene con il microfono, non tocca nulla, ma qua c'è gente ogni giorno, devi stare a dire qui che sta uscendo male, guarda che sei troppo forte, guarda quello, eppure escono tutti i giorni in radio, li ascoltiamo e stanno ogni giorno toccando. Non voglio far nomi perché non mi piace, ma già lo sapete voi chi sono. Poi dico, una volta che ha trovato il giusto compromesso, c'è Luca, avrà 20 anni alla radio, da quando lo conosco io, quel Pluto, che tra l'altro gli avevo dato io, non 20 anni ma di meno, è sempre perfetto, va bene, e non lo vedo mai toccare e fare. In effetti è così. Oh, scusate che mi sta chiamando mia moglie, mi sta chiamando, dobbiamo fare così. Ci sentiamo, dai, al limite se ci siete dopo, oppure se no vi saluto. Ci sentiamo. Ciao Roberto, ciao Giulio e ciao anche a Luca. Magari ci portiamo alle prossime. Anzi, a Luca gli volevo dire che da segnale 5, che mi arrivava prima, mi sta arrivando 8-9, mi sta arrivando, e con una bella radio ancora più potente. Ciao a tutti, al limite se ci siete dopo. Ciao, ritorni Giulio. Ok, ciao Franco, a dopo allora, dai, ci sentiamo. Sì, no, Luca ho sempre uscito, ma io l'ho sempre detto, per me la radio di Luca non è perché è presente, ma l'ho detto anche quando non era presente, è una delle più belle radio della 27, per cui come lo è quello di Roberto, ho detto anche quello, non perché sia presente io Roberto, però l'ho detto tante volte e non cambio idea, perché io sono dell'idea che una cosa deve essere detta e deve essere quella e basta, è inutile stare lì a cambiare idea o dire creativate, no, va bene, assolutamente. Come è bellissima ad esempio la modulazione di Claudio, però ci sono certe radio che magari dai e fanno pietà, alle volte io mi sto zitto, ascolto, magari mi metto lì la mano sul potenziometro del volume, cerco di regolarmene in qualche maniera, addirittura c'è qualcuno che sono costretto ascoltando con le cuffie, per dire no, sempre per migliorare, perché magari le cuffie in una certa maniera mi attenua certi rumori o certe cose, ma purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare, non tutti siamo uguali, pertanto la sappiamo benissimo come funziona e come è sempre funzionata la frequenza. Io rispetto tutti, apprezzo tutti e voglio sentire tutti, però in maniera decente possibilmente, ma non disdegno di ascoltare anche chi mi arriva male, per carità, ci mancherebbe altro. perché non so se dipende da lui che non sa regolare o se dipende dalla radio che sta usando, e io la penso in questo modo. Robè, rispetto per tutti, avanti Robè. Sì, per la metà, l'altra cosa posso dire di te, anche tu c'è una vita, io vabbè, io non ti conosco da 50 anni, ma per quegli anni che ti conosco cerchi sempre di uscire nella migliore dei modi, non ho tanto più compromesso, adesso hai detto tu stesso, un anno fa regola, e non è Luca dice benissimo, cosa devi fare ogni giorno, ma non perché voglio polemizzare, c'è gente che attacca il baracchino e ogni giorno esce con un modo diverso con lo stesso baracchino, e buh, stai uscendo discretamente, o bene, lascia strano, non tocca nuda, poi domani guarda come stai uscendo là, e poi si lamentano. Infatti io molte volte mi sto zitto per evitare, c'è gente per malosa, magari che ci rimane male, preferisco starmene zitto, ma molte volte dico, ma se non si ne comprende nulla, devo stare, cosa hai detto? Che cosa? Ma non perché non abbia la radio che gli permette di uscire, è loro che proprio ce l'hanno istintivamente di tucca. E io c'avevo mio fratello così nella moto, ogni di tuccava, ha detto, hai trovato il motore giusto, l'ha giusto compromesso, il ciao, andiamo raga. Ogni giorno lui doveva trovare una cosa diversa e peggiorava sempre. Poi quando trovava il coso giusto, non si sfasciava e si metteva di nuovo a toccare un'altra cosa. Era una cosa assurda. E così c'è gente qua in radio, dico, sta uscendo bene, rimane così, non tocca nulla. Ma certamente sì, ma è così che bisogna fare. E poi tu avrai notato che io raramente chiedo un controllo sia in radio che di segnale. Perché? Perché, ripeto, come ho detto poc'anzi, io prima di entrare in frequenza difficilmente mi dimentico di ascoltarmi, difficilmente. La prima cosa che faccio, accendo l'altra radio che ho qui a voi di fianco, accendo con l'altro alimentatore, tra l'altro, mi metto le cuffie e mi ascolto sul canale, di solito sul canale 7. Infatti qualcuno qualche volta mi ha anche scovato provando radio, facendo la prova radio. Per cui se l'ascolto non lo so, avrà capito che sto parlando di lui. Per dirtelo, io poi ho già anche un altro particolare. Quando entra una persona che senti bassissimo, che sta uscendo male, come fai tu a chiedere di controllo? Ma allora sei proprio assolutamente incapace di capire cosa è la radio, cosa è la frequenza, perché io non posso chiedere un controllo a uno che mi sta già arrivando male. Non me ne affutti nulla di avere il controllo da parte di quella persona, con tutto il rispetto per lui, ci mancherebbe altro. Io il controllo se lo chiedo a Roberto, lo chiedo a Claudio, lo chiedo a Franco, che mi danno un controllo con radio segni. Io la penso in questo modo, senza offendere mai nessuno naturalmente, però io la penso in questo modo, il mio carattere è questo, Roberto, e così continuerò. Avanti Luca. Giulio, chiedila a me il controllo, cassettina. Ciao Natali, tanti auguri, dai, tutto bene, a proposito, di salute, tutto a posto? Non tanto bene, non sto bene, Giù, mi devo ripigliare da questa qui e poi devo fare l'altra, vabbè, dai, riprendete che vi ascolto. Natali, ma come fai a dare un controllo se tu hai le orecchie di porco, non le devi dare? Io glielo do a Giulio, perché Giulio ha la mia stima e io gli do il controllo a lui. Ciao Natali, comunque ben sentito, dai, c'è anche Luca, facciamo entrare a Luca, vai Luca. Luca è il Ruzzi Gende, il pane Carrasa, anzi cos'è l'altro, Gutiao? Luca sta mangiando pane Gutiao, ma si vede pure un cicchetto, perché vi è considerato che il Gutiao è un po' salatino, per cui attira anche a chi piace un bicchierino, insomma, ecco, un vinello, come lo vuoi chiamare, a me non mi attira nulla proprio, a me mi attira al massimo un'aranciata o che so io, un succo di frutta, va bene, capito Roberto? Perciò io inutile, tante volte di sera, ma cosa faccio, come sta uscendo? Ma cosa me ne frega mai di come sta uscendo tu? Ti sento e basta, non me ne fotte niente, sì, te lo do il controllo, non perdo niente, non mi stai nemmeno dando fastidio, però tu mi stai chiedendo una cosa senza senso, secondo me, io la penso così, io non ho peso sulla lingua, parlo chiaro, io non offendo nessuno, rispetto tutti, chiunque, sono gentile con qualsiasi persona che sente frequenza, però se permetti un concetto delle persone non me lo faccio, no? Tu mi stai domandando una cosa che non ha senso, dunque ti accontento, mi hai chiesto una cosa, ti rispondo, però lascio il tempo che trova, io la penso così, Roberto. ma il controllo è tollerabile quando, per dire, uno cambia a casa, dice guarda ti ha ascoltato, tipo Luca prima era al monte, adesso si è trasferito a parte, mi ha ascoltato, è cambiato qualcosa, oppure mi cambio l'antenna, a quel punto sì, ma dentro città, e beh come sta arrivando, quanto ti arrivo? Adesso quanto è? Da 9.15 sei salito a 9.18, e che cazzo, siamo in città, cosa te ne ha fatto? I controlli si fanno a lunghe distanze, con gente che ti ascolta tra l'altro. E beh certo, se no non avrebbe senso andare lì a chiedere, ma cosa mi ha fatto? Meglio questi signori vendi tu, intanto a me non mi interessa di sentire tutti i giorni Claudio Villa, ormai Claudio Villa è morto da tanti anni, può avere una voce bella, può avere una voce brutta, ti ascolto volentieri ugualmente, no? Poi se ti sento male che non ti capisco te lo dico io direttamente. Con questo non voglio dire che non voglio essere gentile con la gente quando mi chiedono un controllo, perché il controllo, ripeto, glielo do tranquillamente, però io mi metto nei panni di una persona che a un certo momento mi sta chiedendo una cosa che secondo me non ha senso. Se stai uscendo male tu, cosa pretendi, di ascoltarmi bene? No, non è possibile. Io la interpreto in questa maniera: se tu esci male avrai dei limiti anche nell'ascoltarmi, non mi puoi dire di no, magari mi dici che mi stai sentendo bene, non è vero, non mi stai sentendo bene, perché stai uscendo male tu, non hai un'antenna performante, sei in una posizione poco ideale, eccetera, eccetera, di conseguenza tutti questi sono valori da tenere in considerazione. E poi se sei in macchina, tanto per fare un esempio, o se sei che so io, in un posto dove non c'è segnale, è inutile che ti chiedo. Non mi serve. Un attimino. Se chiedo un controllo, chissà chi è una radio che mi può dare un controllo. Intanto sì, io, con uno switcher che non è stato manomesso, no, con un cacciavite che adesso me lo metto a Santiago 9 o a 9.30. No, non va bene. Lo switcher deve essere quello stato registrato dalla fabbrica senza essere manomesso, eccetera. Se no mi stai dando una risposta fasulla che non serve a niente. Natalino, vuoi riprendere? Ma se c'è qualcuno che voleva entrare, avanti che vuole entrare. C'era qualcuno quando hai parlato tu, Giulio, c'era una portatina sotto, non so se voleva entrare, avanti che vuole entrare. No, c'era la risposta di Natalino probabilmente. Natalino, dimmi. Ho detto che vi ascolto, già lo sapete il perché. Ok, Natalino, d'accordo, perfettamente, sono contento comunque che ci ha ascolto, comunque auguri ancora a te e la famiglia, insomma. Ci sentiamo prossimamente, eventualmente anche tramite telefono, come qualche volta facciamo. Bene, bene, bene, bene. Avanti, Luca, ci sei? No, Fabrizio, non era Natalino, giù, quando stavi parlando tu, c'erano due colpi di portante, ti ha schiacciato, ti ha incenerito, nel senso un segnale molto più forte di te. Ho sentito la voce di qualcuno sotto, non ho capito chi era, ho detto un attimino, facciamo entrare adesso. Più forte di Sassari, no, scusate, ma l'ho dato io per sbaglio. Buonasera a tutti. Ah, e vedi che c'era un segnale forte. Ciao Antonio, ben sentito, non farlo più comunque. Vai giù. Ok, ciao a tu, ben entrato. Sì, appunto, non capito come la interpreto io la questione a riguardo delle modulazioni, eccetera, robe, per cui non. Però, ripeto, per me va bene qualunque cosa che ascolto, alto, basso, forte, gracchiante, modulazione limpida, va sempre bene, perché ripeto, l'unica cosa che posso fare è cercare di aggiustare tramite volume, niente di particolare, per cui non, poi io ho sempre fatto così, quando ho sentito qualcosa che non va molto bene, posso anche permettermi, guarda non ti sento molto bene, aggiusta qualcosa se è possibile, se no va bene lo stesso, ti ascolto ugualmente volentieri senza stare lì ad essere troppo pignolo. Avanti Roberto. Aspetta, c'è Antonio, avanti Antonio, non hai sentito Antonio giù? Sì, siamo salutato, come non l'ho sentito, certo che l'ho sentito a voglia. No, già lo sento bene, Antonio già lo sento bene, non c'è problema. Capito Robè com'è la situazione? Però casomai mi dai fastidio se stai sempre toccato con mamma e davai, ma un tuo dicendo, aspetta che provo, no, aspetta, ascolta, se dobbiamo fare queste prove, dimmi, passa sul tale canale, vengo lì volentieri e ti do anche una mano a fare le prove, però se tu ti metti poi a fare tutte queste prove quando c'è già un QSO, questo non va bene, io non lo ritengo corretto nei confronti delle persone che sono già in ruota. Dimmi, spostiamo. figuriamoci 2, 3, 4, 5, 10 canali più su, più giù, va benissimo. Sono contentissimo di seguirti e di darti tutti i responsi che mi chiedi, però non è tanto, insomma cerchiamo di essere corretti in poche parole. Tutto io, Rubè. Ero giù che mi stavo prendendo le ciabatte, che non le trovavo, scusate. Ho capito il raffreddore, scarso me. No, ce l'ha già Udia. Eia, ok, vai Giulio di nuovo. Ok, copriti bene, Antu, copriti bene, non siete migliori raffreddori. Via. Beh, oggi vi andate a Lombardo, ieri mi ha detto che avete ballato e oggi cosa avete fatto? Viaggio travagliato. Hai ballato in questo modo, ma hai ballato ugualmente a tu, è vero? Sì, sì. Oh, ma è una buona. Aspetta, mi gioco, si stanno andando i cuscini, Tanto, ma il sabato lavori solo la mattina? Fa. Come? Fa, lavoro, solo la mattina lavoro. Mi stavo sistemando il letto, ma almeno, vedo che c'è chi so che burro ceracco. Vedo guccato, aromanco. Da un lavoro faticoso il tuo, poi se ti capita a portare una mamma al quarto piano senza ascensore, magari te ne scende un po' le braccia. Che me va le braccia. Una volta in via con la mappa, vicino dove abita, forse il barazzo Giulio. Ma ho fatto, no, nell'altro palazzo più alto, 10 pane a piedi, ma ho fatto una buccia. Siccome te l'avevo già pagata con un boss, ho detto cosa faccio, cosa non faccio. E vabbè, mettiamoci di buon umore e facciamola. Da 15 kg della giazzata. Ti pesa sempre 30 kg, mi. Già lo so, cazzo, è pesante. Cioè ci vuole anche forza. Se lo fai una o due volte va bene, ma se lo fai spesso alla fine ti rifà la mazza. Come va la mazza? Vabbè, però, cioè, no, vabbè, piani così, no. Sì, ne posso con 5, 6 piani a piedi, 4 piani a piedi, forse molti bombolaghi a Sassari, dico. Molti bombolaghi a Sassari non li bruciano. Sì, no, lo so, quello già è vero. Poca gente se lo può permettere, vabbè, tu già sei giovane, in piedi è forte, ma gente che conosco io, non facciamo nomi. Sibilla la mamma 15 fa dalla motocarro, mette l'ente radiata col fiatone. Sì, cappa. Io fiatone non ne ho, non fumo, no, non faccio, non ne ho stravizi, capito? Ehi, vai giù. Ok, sì, beh certo, in effetti è così, Antonio è giovane, quando capita di portare la bombola al quarto o quinto piano, insomma, non è un gioco, è sicuramente una grossa fatica, non ci sono dubbi, nonostante la giovane età di Antonio, e anche la prestanza fisica che ha, che c'è tutto l'uomo, è una montagna Antonio, per cui non ha di questi problemi, è giovane, però può capitare che magari ti chiedano anche una bombola da 25 kg e allora io comincio a essere pesante, ma che 25 kg magari diventano 50 kg e quando a portarli su al quarto, quinto piano e forse qualche volta anche più su, insomma, diciamo che la fatica si fa sentire veramente, vero tu? Forse non hai compreso, hai detto giusto, hai detto. La bomba 25 dipende dal ferro, pesa intorno ai 58 kg. Cioè, hai detto giusto proprio. Io già l'ho fatto, una volta ce l'ho salita, al sesto piano ce l'ho salita, perché gliel'ho fatta, va. Ero di buon'ora, ce l'ho salita. Però voglio vedere un altro a fare di chissà, la manito che sono mancante. Indubbiamente tu è un sacrificio enorme, non ci sono dubbi, ma è così, ma quando uno è giovane è tutto diverso, cioè se ti vengo io ti avrei detto la stessa cosa, tu ma ultimamente è stata una cosa del genere, bisogna essere andati in due a prendere la bomba, però anch'io quando ero giovane certi sforzi così li facevo, perché li facevo. Mi ricordo una volta, tanto per dirtene una, per raccontartene una, in via in Porcellana, via Porcellana, c'è la, il palazzo dei ferrovieri cosiddetto, dai, c'è l'ingresso, si entra lì, si va poi all'interno del cortile, ci sono diversi ingressi, diversi portoni, e io mi ricordo, portavo su delle cucine economiche, quelle di una volta, di quelle a legna, coi cerchi di ferro, eccetera, e una volta io ho già giovato, proprio per un quinto piano, il barriero, guasto il quinto piano, da sopra il motocarro, ero io e l'autista, ma avevano qui dietro il principale, vai aiuto a portare su questa cucina, e lui è arrivato lì davanti al portone dove dovevamo entrare. Mi fa, aspettami un attimino Giulio che vado al tabacchino a comprarmi la sigaretta e dopo portiamo sulla la cucina, vabbè, e c'è andato, non si vedeva più, c'è pure io vicino la cucina alle sponde del motocarro, apro la spondina, giro le spalle, c'è un paio di manubri che virano, c'era un corremano tutto attorno, no, in questa cucina, me la prendo e me la carico sulle spalle. Lui in quel momento è uscito dal tabacchino a distanza di cosa della sala, 50 metri, e si è messo a correre, aspetta, e ha giubilato, mi sono andato, sono entrato nelle portone, sono sceso giù in questo cortile, c'è una specie di spiazzo, c'è, no? E poi ci sono i portoni per salire sui piani, e sei già stato una cucina azzurra, sei già stato una cucina economica, però allora a quell'età, ma via 20 anni, all'incirca più o meno, per cui non so, però sono sforzi assurdi che uno non deve fare, perché poi alla lunga uno se ne risente. Avanti Roberto. Il grandicello fa il primo sforzettino, ti hai caricato 20 anni prima un peso enorme, tiri, tacchi, ti fa le contratture o polizia per i muscolari e ti va a denevare. Tu già hai conosciuto uno che aveva la mania della mania, nel senso che era forte, macista, e di nome già finalmente a Franco Macista. Si buttavano i lavandini dai bar, entrava nei bar con la scusa di andare in bagno, e poi ne smontava il gabinetto il lavandino se lo metteva sotto il braccio, come ha fatto una volta, e se ne è andato. Questa è verità, ma non è uno scherzo. Roberto, se tu l'avevi sentito quella storia. Sì, che l'ho sentita, al cinema l'aveva fatto, ma non veniva a Romagna, non è in bagno, non ha pigliato il lavandino. Vai, Antu. Ma se dico di andare il caffiotto misto, ti va di aggapputtare però me. Tu, appunto, questo mi abbia la mania della busta, via. Andavo a Barigarriera, a petto nudo, quello d'inverno, e dove sempre calori era. Non so così era un mancantesimo che va via in capo, che va a camminare a petto nudo, o se effettivamente è perché avesse caldo, ma non credo che uno anche d'inverno può avere caldo e camminare a petto nudo. No, andava perché aveva la prosopopea di farsi vedere il fisico muscoloso come lui aveva, in effetti aveva, non so se è ancora vivo, ma suppongo di sì, anche perché non è che era così anziano. Avanti Roberto. No, credo che sia morto diversi anni fa, tanti anni fa, credo che sia morto. Ma è morto, ci hanno messo un ricordo su Facebook, l'hanno messo. Oh, è meglio, questo non lo sapevo appunto, ma io ero anni ormai sta vedendo, però queste sono cose che sentivo. Un'altra volta, ti ricordo, c'era allora la sala del legname su in Viale Dante, no? Angolo Via Duca degli Abruzzi, c'era la rivendita di legname, lì c'era, no? E c'era questo tipo, non mi ricordo come si chiamasse di nome, tra l'altro abitava vicino a casa di mamma, proprio nello stesso palazzo, però con diverso portone, perché si chiamava di cognome Sanna, però adesso non mi ricordo, sono anni senza vederlo, e lavorava lì come magazziniere anche lui. A un certo momento entra questo e gli fa: scommetti che se sei capace di sollevare la coda di questo camion? E da rido, a lui l'ha preso, l'ha sollevato ed è seduto sopra la coda del camion, perché c'era la sponda aperta, no, la sponda di dietro, e l'ha seduto, ha preso l'altro uomo che c'era sempre lì nel deposito, e l'ha seduto sull'altra parte della sponda, sempre ha pegato il deposito sotto con le spalle e ha sollevato le ruote del camion con due uomini seduti sopra, una cosa bestiale, una cosa veramente bestiale, Robe, a vedere questa, un uomo, una forza del del genere, c'è da spaventarsi, guarda. Non so, quelli poi, tipo quelli facevano, c'era uno in Fiat che lavorava, che faceva sollevamento pesi, quello Clicchi non ne usava, quando andava a fare le cose, era meccanico questo, arrivava nel 128, andava tra e andava la gozza, ma c'era una forza, era tozzo, piccolo ma tozzo, c'era una forza, braccia corte, ma tutto sulle gambe tirava su, bisogna saperlo fare, tra l'altro, non è che uno si mette a fare certe cose, se no ti tronchi in due, questo era di una forza della natura. Sì, una forza micidiale. Questo che ti sto dicendo, che abitava appunto nel portone a fianco dove abitavamo noi, a casa di mamma, insomma, piazza Lugolino. Una volta si è trovato incastrato, chiuso da due macchine, una avanti e una dietro, nella piazza, e lui non poteva uscire. Lui aveva una di quelle macchine grandi, proprio una di quelle Ford grandissime. A un certo momento cosa ha fatto? Siccome non poteva fare manovra, né davanti né dietro, perché non c'erano più di 10 cm per parte, non era possibile uscire da quella chiusura che gli avevano fatto le altre macchine. Ha preso lui, sapeva la parte davanti, una trattata, a un bacio, la buona trattata dalla parte di dietro, in un paio di tracciate se ne ha tolto la macchina dal parcheggio come era così, no? Trascinando le ruote naturalmente. Per dirti, no, era una forza bestiale di questo uomo, era culturista questo. Avanti Antonio. Peccato, ma era pure un guido l'aino bianco però di Diana Sassari. Chi su Mattesi mi hanno raccontato, dice che ha preso un leoncino carico di sabbia e l'ha puciato come se fosse a un coso, un mobile leggero. E quello una volta io stavo lavorando in una casa, stavo lavorando, e c'era questa donna che aveva necessità di portare giù un pianoforte, aveva. Beh, lo sai che questo se l'ha appoggiato all'ultimo gradino su in alto, si è abbassato, ha preso il pianoforte, se l'ha girato sulle spalle e sta parlando il pianoforte da solo, una cosa bestiale veramente, intanto con una difficoltà estrema, perché le scale non è che erano tanto larghe, sì, passava, ma non è che erano così tanto larghe, una cosa mostruosa veramente. E anche quello era di Usini, mi sembra che fosse nato a Usini, però viveva qua, credo, non me lo ricordo bene. Sì, infatti nel negozio dove lavoravo io veniva sempre lui a portarci tutti gli elettrodomestici, eccetera. Io sto parlando di quando ero ragazzo, praticamente, tantissimi anni fa. E poi tra l'altro è il parente di un mio caro amico. Avanti, Robert. Ma ce n'era un altro, io non l'ho visto, però me l'ha raccontato, proprio il nipote di quella persona che hai nominato tu. Questo qua vende, diciamo, una ditta molto famosa a Sassari. C'era prima il padre che vendevano ricambi, adesso c'è il figlio che lo fa, questo è una forza della natura, adesso vabbè, grandicello, ma quando era più giovane ha preso uno di quei motocoltivatori Goldoni, cioè presenti quelle con le ruote che ce l'abbiamo uguale noi, 13 cavalli, peserà io penso 150 kg tutto intero, l'ha preso con le braccia da davanti, l'ha sollevato e l'ha messo dentro il fiorino, proprio accanto il peso, dalla parte dove si mette in moto, che si mette la cima per mettere in moto al trappolo, l'ha preso con le braccia, c'è la casa, ce l'ha messo dentro da solo. Sì, ma ci sono queste persone che hanno una forza tremenda. Beh, la cosa che ho potuto constatare fra queste persone, che poi sono di una bravura estrema, se tu questa gente ci parli, no? Hanno un modo di parlare tutto calmo, proprio con una cadenza tranquilla, è gente che potrebbe vivere di prepotenza anche, invece magari le puoi anche dare uno schiaffo, quasi non si girano, nonostante che lui magari ti solleva con un dito e ti sbatte al muro, per dire, no? È una cosa micidiale, guarda, io l'ho potuto notare, la maggior parte di queste persone così potenti, così forti, sono di una bravura eccezionale, prima di farli arrabbiare, se ne passa di bel tempo, andiamo a fare le cose. Avanti Antonio. Guarda che quando era giovane quello che fa i trasporti, dici che proprio una volta mostruosa, Vittorio Garetti, quello che fa i trasporti, dici che quando era giovane si pigliava Rubiano Forte e si drugargava andando a rubare il coetto da solo, Africa, ma aveva una puzza micidiale mi quel uomo lì, lo conosci? Te l'ho raccontato, che è proprio quello che è sceso dal mi pare che era del Sobiano, questo pianoforte così, e tu sai benissimo il pianoforte di quelli proprio da musicisti, quelli professionali, beh, davvero meno, non è una fornatura, no? Beh, se l'ha caricato, adesso mi dice no, portiamo giù, perché erano in due anche, tra l'altro, no? Era uno che lavorava insieme a lui e faceva i trasporti, e ho detto no, non ti preoccupare, dai, tu gira a Milo, solo in andare padre, tu gira a Milo appena in modo che io non posso brillare. Lui ha messo le spalle, ragazzi, e se l'ha caricato sopra con l'aiuto di quello che gli era solo inclinato, non è che gli era sollevato, gli era solo inclinato, no? In modo che lui lo potesse prendere bene. Se l'ha messo sulle spalle e l'ha portato giù. Sì, non andavamo a toccarlo. Dici, no, una cosa tremenda, tu, per carità. Una forza bestiale, veramente. Avanti, io, vabbè. Sì, già lo conosco. Ma credo che sia morto, però, quello lì, mi sembra, no? Qualche anno fa è morto. Sì, per quanto ne so io, sì, so che è morto anche quello, purtroppo. Però era anche grandetto, di età, ormai era... perché era già abbastanza grande quando io ero giovanotto, più era di un poco, per cui era micidiale. Lui aveva i capelli tutti bianchi, le sopracciglia tutte bianche, però era una montagna di uomo, io penso che era un uomo che pesava, minimo pesava, lui personalmente minimo 120 kg, solo lui, era una montagna di uomo, forte, ma forte e bravo in un pezzo di pane veramente. Allora, Giantù. Io pochi anni fa quando l'avevo visto, ma è un po' che non lo vedo, la verità, ma già ci viene il cognato, non so, che se non era morto, io mi ricordo, se no è morto da poco. Cavolo, che mi ricordo io, infatti quando faceva i viaggi, siccome un periodo faceva i viaggi con la caravan per la Rock House, si pigliava, mio padre ha detto che si pigliava due di quelle spie audio che pesano quasi, o quei sub, dice che si ripigliava la giù, ma guarda quanto pesano i 200 kg l'uno, me. Cazzo, va via una forza, va via, quei sub che si mettono in terra. I cassoni su Bubu, sì, sono pesanti quelli. La bodega, da giorno poi si prendeva quelle spie, cioè quelle che mettono il chitarrista, il monitor, che pesano un bel, non so chi si giocattolini, no. Da giorno una bacia, una lata, mi pare che pesava le 100 kg di luna. Una forza che va via. Sì, già lo so, ma quelli sono uomini, cacchio. Che poi, come ha detto Giulio, molte volte sono delle persone buone, non danno fastidio. Anche Franco Macista non era cattivo, tutti quelli che l'hanno conosciuto dice che era una persona gentile, c'aveva questo senso di esibizionismo, di far vedere la forza, però non era parlatore. Se ne rompi di cazzo, vedi, si sbarrava la faccia, dovrebbe gli arrombare un culo, no? Se sapeva tu delle mosche davanti al naso, questo sì, non ci sono dubbi, però se non lo molestava, se non dicevi niente, era tranquillo. Se ci parlavi ti rispondevano tranquillamente, con tutta la calma di questo mondo. No, assolutamente. E appunto io l'ho notato tante volte. Sembra fatto apposta. Più forti sono queste persone e più dolci sono come carattere. Veramente, guarda. Per cui, per dirti, non è vero, dice, quando vedo una persona del genere sembra strapotente, ma non è vero, assolutamente. Hanno un carattere d'oro, invece, la maggior parte di queste persone sono molto alla mano con tutti e in qualsiasi situazione, no? non c'è problema. E vabbè, comunque, ci sono stati tanti a Sassari, tranquillamente, che hanno avuto sempre tantissima forza, ma ormai sono passati quei tempi, prima esistevano veramente, ecco, come forma di esibizionismo ce ne sono stati tanti. C'era quello, ad esempio, che sollevava l'uomo, metteva il braccio teso da terra, così, fuori di innanzi quello con i piedi, gli tassi con un braccio da senato. In effetti c'erano queste persone che lui si metteva inginocchiato per terra, metteva il braccio disteso per terra, tutti mettevi sopra il braccio, e lui col braccio solamente con la forza del braccio ci sollevava in alto, si sollevava anche lui chiaramente da essere inginocchiato. Per dire, c'erano queste persone. Quello era uno che abitava anche nella zona lì vicino a dove abitava Luca prima, Luca del Monte, o abitava da quelle parti, ma ormai è morto anche lui da tanti anni, ma era robe. Meglio, lo so. Prima diciamo queste cose erano più visibili, adesso magari. Allora vedi ragazzutti, chi non fa di nuda fa delle prepotenti, subito a voci e cose, e poi temono potete la bambola, bovara. Ah, la massa di guace. Una volta quello che ti stavo dicendo, quello che aveva sollevato il camion con degli uomini, siccome aveva anche il viso un po' di bene, no? Ed era mezzo brillo, è salito al corso per girare in via dove c'era il più vecchio prima, no? E lì c'erano i paletti, c'erano. Come ha girato, ha stretto troppo e con la macchina ha piegato i paletti, ha piegato. Ma lui non si è preso l'animo, no? Si è fermato, si è sceso, è andato, si è avvicinato al paletto con una mano là, ha dato una tirata e ha raddrizzato i paletti, quei paletti che ci sono rossi e bianchi che delimitano la viabilità o robe, te li immaginate? Ho capito, in forza. Forse ride, con una mano così, no, senza nessun problema. L'aveva ben piegato bene, proprio praticamente quasi a squadra questo paletto, perché la macchina se l'aveva trasfacciata, vabbè. Ma quella già era la sua, la macchina è meglio bello.